che ci fa spendere 2700 euro per fare che cosa? Per usarlo in 27. No, per appena, beh, grazie, una cosa mi basta anche per averla, mi sono appassionato di averle, di toccarle con mano, come i modellini delle moto, uno stato bene il mio volante che per i Ducati Mark III, ha detto beh, anche il modellino mi era piaciuto, ce l'ho vero. E capito, quella la radio, non la, però mi basta che io la sera che ce l'abbia, capito, sono l'uomo più felice del mondo, ma mi posso permettere come un qualsiasi cosa, me la posso permettere, però quel 10-2000, guarda, mi ha affascinato bene proprio, questo me lo compro, e poi anche i microfoni, ho visto SM20, devo parlare quindi, proprio la sera, anche se non ci parlo, però mi passa anche solo per la sera, questa cosa è una persona così, no, io ce li ho e non mi farò più nel caldo del freddo, se tu apri il sito, se ti apri Sassari, fai sull'elenco soci, ti appare una pagina dove c'è il mio nominativo, ISDR DFB, clicchi sulla macchina fotografica, ti appare la mia stazione e vedi che c'è TS2000, che ci sono tutte le varie cose interessanti, guarda. Così le vedi, le passi il dito, le tocchi e poi non te ne compri più. No, basta Gianni, basta. Ho tolto altri 5 microfoni da dentro l'armadio, basta così. No, alla fine non c'ho più posto di niente qua, non mi interessa. Ma boh, facciamo girare, avanti a chi tocca, che mi cambio intanto. E poi io qua c'è un attimo di arco, per carica, e ci sentiamo dopo, dai. Due giorni, tre giorni, un mese.